Allora, benvenuti alla lezione di Chassidut, che si basa su un discorso del Rebbe Yosef Yitzchak di Lubavitch di questo periodo dell'anno nel 1943, ha scritto, e si basa sul versetto della Torah che parla della Sefirata Omer. Allora, nella Torah, nella Parashah di Emor, studiamo che è scritto nel capitolo 23 del libro di Vaikra, versetto numero 15, Usfartem lachem, abbiamo anche il testo, Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Usfartem lachem significa dall'indomani del riposo. Shabbat qui è inteso non come il sabato, cioè il settimo giorno della settimana, ma come il riposo, cioè che riposo c'è? C'è la festa di Pesach, quindi il giorno successivo, il secondo giorno di Pesach, bisognerà contare, usfartem, e conterete, lachem, per voi stessi, cosa conterete? Da quando, un'altra indicazione, la Torah dice, miyom haviachem et omer hatenufa, dal giorno in cui porterete l'omer, che è la misura di orzo che si portava come offerta tenufa. Tenufa letteralmente significa innalzamento e dimenamento, e poi approfondiremo il concetto della tenufa. Sheva shambatot mimot yena. Quanto dovete contare? Conterete per voi stessi sette settimane. Temimot teyena, in modo che siano temimot. Temimot significa complete. Ok? Quindi la Torah ci sta dicendo contate per voi dall'indomani del Pesach, del primo giorno di Pesach, che è il giorno, l'indomani del primo giorno di Pesach, è il giorno in cui si porta questa offerta del Omer, da quel giorno contare sette settimane intere. Ok? Ora vediamo di approfondire un attimino qua nel testo e leggerò piano e cercherò di tradurre ogni parola in modo tale anche che, e visto che è un ebraico molto facile questo, che si possa anche cercare di intuire chi già inizia a capire anche un po' le traduzioni. Yesh lehavin, bisognerebbe capire, ma pirush hamila lachem. Qual è in questo versetto il significato, non la traduzione, ma il significato della parola lachem, per voi. Abbiamo letto nel versetto, conterete per voi. Cosa viene ad insegnarci questo per voi? Conterete già include quello che si vuole trasmettere come concetto, contare. Allora troviamo anche, ora vedremo, in altre mitzvot, il termine lachem, per voi, e ogni volta che è scritto lachem va ad indicare qualcosa che non sarebbe chiara se non fosse appunto scritto lachem. Facciamo qualche esempio, vediamo. Bedomè lekach, simile a questa nostra situazione, anu mozeim, noi troviamo, nimzo, trovare, mozim, noi troviamo, be mitzvat etrog velulav, anche nella mitzvah di Sukkot che prendiamo il lulav e le quattro specie l'etrog, sham, li, katuv, è scritto, ulekachtem lachem bayom harishon, e prenderete lachem, per voi, Bayom Arishon, il primo giorno. E anche lì ci si pone la stessa domanda. Perché ulekachtem, e prenderete lachem, per voi? Cosa aggiunge questo per voi? Il voi è già incluso nella parola lekachtem, voi prenderete. Quindi perché questa parola in più? E lì i maestri spiegano, vesham, e lì in quel caso, pirush, il significato, hamila, della parola, lachem, voi, per voi, hu, sarebbe, come insegnano i maestri nella Gemara, nel trattato di Sukkah, shetikhu mishel lachem, ciò che prenderete deve essere di vostra proprietà, mishel lachem, dal vostro. E cioè che il lulav è una mitzvah che per poter farla bisogna che le quattro specie siano di proprietà della persona che dice la berakha e fa la mitzvah. Ok? Quindi deve essere acquistato, acquisito in qualche maniera. Quindi quando uno, per esempio, va al tempio e gli viene prestato un lulav con le droghe, non è giusto, non lo può Allora, fare, non esce d'obbligo? per questo motivo, se una persona usa un lulav di un'altra persona che glielo presta, in realtà non glielo dovrebbe prestare, dovrebbe regalarglielo, Rimane su. con la condizione di poi riacquisirlo il proprietario originale. E si dice proprio una formula, ma anche senza la formula esatta, matana al menat le ahazir. È una matana, è un dono, è un regalo che tu prendendolo in mano acquisisci, perché alachicamente si acquista anche prendendo in mano, e al menat sulla condizione di poi ridare. Questa è una cosa particolare della mitzvah di Lulav e Etrog, proprio per quello che abbiamo detto che è scritto Lachem, ma oltre al fatto che deve essere di propria proprietà, non ci uscirebbe l'obbligo che, come qui citiamo dalla Gemara, velo min ha-gezel, se fosse rubato, quindi non di propria proprietà, non ci uscirebbe l'obbligo della mitzvah. Per questo motivo la Torah sta scrivendo Lachem per voi nel contesto dell'Ulav e l'Etrog, non per voi letteralmente, ma del vostro, dal vostro, Mishe Lachem. Che mi scandano così quando uno Nel porta i doni, Mishkan, dono porta i doni, che dice sì? la Chem, dice prendete del vostro, date del vostro. Sì? Kehum Eitechem, vero? È un termine diverso, ma simile. Anche lì deve essere dal vostro, esattamente, le offerte che si sono fatte per il Mishkan. Scusa, Sì? ma se uno si trova al tempio Sì. durante la giornata di Sukkot Sì? e trova un, ovviamente non parliamo di furto, però trova, non ha la possibilità, è da solo, c'è un lulav, ecco, non l'ho fatta. Qui sono tutti i lulavim di chi l'ha lasciati, prendo, faccio Allora, per come, questo non motivo, potendo chiedere, avere con lo sì, ho scambio. capito. Allora, per questo Sì. motivo esiste. Normalmente ogni tempio, ogni comunità acquisisce dei lulavim Ah, pubblici. capito. Pubblici significa collettivi, di proprietà di Che sono già chiunque fa parte concettualmente di della proprietà comunità. di chi frequenta la Allora comunità. già è come se tutti partecipassero nell'acquisto di quel lulav. Se è di un privato, allora non prenderlo, Sì, non ma esci non l'obbligo. esce l'obbligo. Se anche lo facesse, non c'è Però è l'obbligo. se è del tempio, cioè Però del c'è. pubblico, allora è già Grazie. contemplata questa cosa. Un altro esempio dove troviamo la parola Lachem, Gam Bishemini Atzeret, anche quando si parla nella Torah della festività che segue immediatamente a Sukkot, l'ottavo giorno, Shemini Atzeret, anche lì è scritto, Bayom HaKatuv è scritto, Bayom HaShemini, l'ottavo giorno, Atzeret Tiyeh Lachem, dovrete fermarvi. Cioè, un giorno di riposo non si fa melachà, un giorno festivo. Tiyeh lachem, anche lì per voi. Perché lachem? Cosa si intende lì? E qui di nuovo citeremo la Gemara sempre del trattato Sukkah, che dice la seguente cosa, qui è l'ultimo paragrafo sulla pagina 102. Sham ha-kavanah, in quel caso l'intenzione, kavanah, intenzione, si intende Hi, Sheachag ve haKorbanot, che la festività e le offerte e i sacrifici Shel Shemini Atzeret, del giorno specifico Shemini Atzeret, Shayachim sono legati Rak Livnei Israel Bilvad, solamente a Am Israel, a differenza dei giorni precedenti. In che senso? Ora spieghiamo. Che van, visto che Shebishevati e Mei Chaga Sukkot, visto che nei Shiv'a, 7 giorni della festa di Sukkot, Hayu ha-Korbanot, i sacrifici che si portavano, erano avur kol ha-Umot, erano per chiedere una berachà, una benedizione per tutti i popoli, Shebara Hashem Itbarach, che il Signore creò, lo rak, non solamente l'Ibnei Israel, per il popolo di Israele, questo nei 7 giorni precedenti. Ed è per questo motivo che il numero complessivo di tori che si portavano sul Mizbeach in quei 7 giorni, il numero complessivo è 70, perché tradizionalmente i popoli dopo Noè si sono suddivisi in 70 popoli. Quindi è un'indicazione di una berachà per tutti i popoli del mondo. Invece, arrivato l'ottavo giorno, Ma she'en ken bishmini atzeret, ma she'en ken, cosa che non è così. No? Ma, cosa cosa che she'enken, che non è così, bishmini atzeret, l'ottavo giorno che atzeret, a korbanot in rakavur bene Israel bilvad. In quella occasione le korbanot rappresentano solo i bene Israel. E nel Midrash troviamo, va Midrash katuv, mashal, una metafora, un esempio, la melech, girare come un libro, mashal la melech she'asa seuda, che preparò un banchetto, livnei ha-medina, per tutti i cittadini. Shiva yamim, per 7 giorni, un banchetto che durò una settimana. Veleacharehem, dopo i quali, cioè dopo i 7 giorni del banchetto aperto a tutti i cittadini, Huomer, il re, dice, le yedidò, al suo amico, yedidò, yedide è un amico, yedidò hatov beyoter, il migliore suo amico. Kaet, ora, leachar shekibadnu, dopo che abbiamo portato rispetto, kavod, kibadnu, abbiamo portato rispetto, et col benei medinati, tutti i cittadini del mio paese, nismach, ora gioiremo, cioè festeggeremo, aniveata yachad. Adesso è il momento che dedico solamente a te. Per 7 giorni ho fatto una festa e un banchetto aperto a tutti i cittadini. Ora, visto che tu sei il mio migliore amico, vorrei avere un momento intimo di festeggiamento con te e quindi aggiungo un 8° giorno per stare insieme a te. E questo viene adoperato come metafora, metafora per dire il giorno Shemini Atzeret. Tutti i 7 giorni abbiamo festeggiato con tutto il mondo. L'ottavo giorno HaKadosh Baruch Hu dice Lachem. Vayom HaShemini Atzeret Yeh Lachem. Sarà un giorno festivo per voi, cioè un momento di raccoglimento tra me e Am Israel. È staccato da Sukkot. Esattamente. Cioè, per una cosa a parte indipendente. Regel bifnei atzmo. È considerato un regel, una festività di proprio. E zo kavanat hamila lachem. Questa è l'intenzione della parola lachem. Mila non significa solo circoncisione, significa anche parola. Hamila, la parola lachem, per voi. She bishmini atzeret, il giorno di questo 8° giorno di festa dopo Sukkot, a korbanot, le korbanot, i sacrifici, shayachim bimnei Israel bilvad, sono legati al popolo di Israele, non a tutto il resto del mondo come i 7 giorni precedenti. Quindi abbiamo visto la parola lachem nel contesto dell'ulav, abbiamo visto la parola lachem nel contesto di Shemini Atzeret, e in ognuna delle due situazioni è stato chiarito dai chachamim per quale motivo serve la parola lachem. Ma ancora non abbiamo spiegato perché serve la parola lachem nel contesto nostro della Sefirat Omer. Ora vediamo. Aval be mitzvah Sefirat Omer. Però nella mitzvah del conteggio dell'Omer. Ma pirush amila lachem. Qual è il significato della parola lachem? Ech yitachen. Come è possibile le kayem et mitzvah sefirah mettere in atto, adempiere alla mitzvah della sefirah, quindi del conteggio, Veseloi elachem, senza che sia lachem per voi. Cioè, significa che c'è un modo di farlo senza che sia lachem, e la Torah mi sta dicendo lachem, deve essere per voi. Quale sarebbe questo modo? Cioè, cosa mi aggiunge questo lachem? Ah, c'è Torah tzricha lehavir, fino al punto che la Torah deve chiarire, lehavir, dalla parola behirut, chiarezza, cioè sefirat yelachem, che il conteggio deve essere per voi. E che altra maniera può essere se non per voi? Cos'è che mi sta dicendo la Torah? E di nuovo, ricapitolando, ben mitzvat lulav etrogi esh tzorech beazara lachem. Vedo il tzorech, cioè la necessità della azara, dell'avvertimento lachem, deve essere solo per voi. Perché? Deve essere di vostra proprietà. Quindi è chiaro. She lulav etrog tzerichim liyot, devono essere mishel lachem, del vostro, cioè appunto di tua proprietà. Gambe Shemini Atzeret, anche nel contesto diverso di Shemini Atzeret, capisco che ha lachem, il termine lachem, mehave hora'a, rappresenta una istruzione, hora'a come Torah, istruzione, she'a korbanot shel Shemini Atzeret, shonim, che le korbanot di quel giorno sono diverse, shonim, shone significa diverso, shonim plurale, mi korbanot hayamim hakodmim, sono diverse dalle korbanot dei giorni precedenti. Quindi è chiaro che Meachar, visto che Sheyitachen, che è possibile, Kiyum ha-mitzvot lelo halachem, sarebbe teoricamente possibile mettere in atto le due mitzvot di Shemini Atzeret e Delulav senza il lachem, perché avrebbe un significato diverso. Ve'az, però in quel caso, lo yiyeh kiyum ha-mitzvot che vi kavanat Hashem itbarach. Ma in quel caso la mitzvah non sarebbe secondo la intenzione kavanah di Hashem itbarach, del santo benedetto egli sia. Lachem, è per questo che tu va a milah lachem, per questo è scritta nella Torah la parola lachem, shemevatat bediyuk, perché questa esprime levatot, levate significa esprimere, esprime esattamente, tutti sanno cosa vuol dire bediyuk, esattamente, et ofen hakiyum shel mitzvot, la maniera di mettere in atto bene la mitzvah. Però tornando a noi di nuovo, aval, mitzvah sefirat omer, la mitzvah del conteggio dell'Omer, lo yecholà liot lelo halachem, non è possibile esistere la mitzvah della sefirat omer senza il lachem, senza che lo contate voi, chi altro lo conta? Allora cosa significa? Share ofen kiyum mitzvah hu, com'è che si mette in atto la mitzvah? She tzarich lispor, bisogna contare et hayamim, i giorni che passano, be dibur, attraverso il conteggio con la parola. Questa è la maniera che si mette in atto la mitzvah. Si conta, si dice il numero del giorno, la si pronuncia. Allora, mahi akavanata milalachem. Mahi, qual è la kavanah, l'intenzione della parola lachem? Se la Torah lo dice, sicuramente qualcosa vorrà dire. Vediamo questo nel testo. Behechreach lomar, siamo costretti a dire shekeshem, che nella stessa maniera shehamila lachem, che appunto la parola lachem haketuva, che è scritta be mitzvat lulav u bashmini atzeret, nelle due mitzvot indicate prima, mavhira, chiarisce et ofena korbanot shel shemini atzeret, da una parte chiarisce nel contesto di shemini atzeret il tipo di korban, vet offen kiyum mitzvat lulav vetrog, e dall'altra parte la maniera, offen significa maniera, come mettere in atto la mitzvah dell'ulav e l'etrog, allora è chiaro che anche in nostro caso, kach gam halachem shel mitzvat sefirat omer, anche il per voi della mitzvah del conteggio dell'omer, mavhir chiarirebbe et offen la maniera in cui kiyum mitzvat sefirat omer, in cui si mette in atto appunto la mitzvah del conteggio. E ora vediamo cosa dice la Gemara a riguardo. La Gemara dice nel trattato di Menachot la seguente cosa. La Gemara omeret. Dice la Gemara, shehalachem hu, che questo lachem viene ad insegnare a noi le seguenti parole. Shetehe sefira lekol echad ve echad, che il conteggio è dato ad ognuno che fa parte di Am Israel. E uno dice, scusa, ma tutte le mitzvot sono date a tutti gli Am Israel? E la risposta è no. Normalmente le mitzvot legate a un certo tipo di conteggio temporale, legate al tempo, non sono date a tutto Am Israel. Di cosa stiamo parlando? Vediamo subito. In questa mitzvah del Omer, kol echad chayav lispor, ognuno ha l'obbligo di contare. Qual è la novità? Vediamo subito. Mitzvah sefirata Omer, la mitzvah del conteggio dell'Omer, e in adoma non è simile la mitzvah alla mitzvah del shel meniat hashanim, del conteggio degli anni, per ciò che riguarda Shemitah ve Yovel, per ciò che riguarda il conteggio del ciclo dell'anno sabbatico e sette anni sabbatici, alla fine c'è il giubileo, il cinquantesimo anno. Esattamente. Beshmita viyovel katuv. Nella Torah è scritto, nella parasha di Behar, due capitoli dopo il versetto che abbiamo citato prima, è scritto riguardo Shemita viyovel katuv, vesafarta lecha sheva shabetot shanim. Conterai per te, non per voi, per te, sette cicli di sette anni. E questo per te è riferito al Bet Din, al Sinedrio. Shebet Hadin Tzarich Lispor, è il Sinedrio, il Bet Din Agadol, la grande, la Corte Suprema Ebraica, che deve contare e c'è nota Shemitah Ve'ayovel. Questo conteggio non è dato in mano alle singole persone, è dato in mano a chi, al corpo giuridico che rappresenta tutto Am Israel, che si chiama Bet Din Agadol, il grande Bet Din, la grande corte. Scusa, sì? E l'Omer riguarda uomini e donne, solo uomini? Teoricamente solo uomini, almeno Midoraita dalla Torah. Aval mitzvah tzifirat Omer, però a differenza della mitzvah della Shemitah e degli Ovel, quello che abbiamo detto ora, la mitzvah dell'Omer dice kol echad tzarich vispor. La Torah dice lachem, per insegnare a noi che questo conteggio qui non è limitato al Bet Din, ma è dato come obbligo ad ognuno. Ok? Quindi abbiamo chiarito innanzitutto cosa rappresenta il lachem a livello tecnico, ma poi dobbiamo aggiungere prossimamente il significato del lachem a livello spirituale e mistico. Prima di fare questo, faremo presente quattro altri aspetti del versetto che andranno chiariti nei prossimi capitoli. Quali sono questi quattro aspetti? Numero uno, benosaf, ulteriormente, tzarich lehavin, bisogna capire, ma hakavana, qual è l'intenzione del versetto quando il versetto dice mimachorat hashabbat, all'indomani del riposo. Perché non è, come appunto abbiamo detto, inteso come il giorno dello Shabbat, non è che si inizia a contare l'Omer la domenica, è il giorno di riposo del Pesach. Quindi perché è espresso in questa maniera? È in qualche maniera legato anche allo Shabbat teoricamente, ma non si capisce perché e come. Eise Kesher, che legame, Yesh, ci sarebbe la Shabbat im Sefirat Omer. Che legame c'è tra il conteggio dell'Omer e lo Shabbat? E in realtà, appunto, Behemet, in realtà, Hashem Shabbat Kan, il termine Shabbat usato qui, Hu Yom Tov, è la festività, non lo Shabbat della settimana, è la festività di Pesach, Shetochno, che il contenuto, Tochen significa contenuto, dalla parola Toch, Toch significa interno, interiore, Tochen, contenuto. Allora, Tochno, il contenuto del Moed è come Shabbat, nel senso che è un giorno di riposo, però perché esprimerlo in questa maniera? Seconda cosa che dobbiamo capire, Gam tzarich leavin, o ulteriormente bisogna capire, Shebakravata Omer muskar kol ha'et inyan ha'nafa. È sempre menzionato il discorso della tenufa o ha'nafa, il verbo di dimenamento. Che l'Omer, ci sono diversi tipi di korbanot, come il korbanot che si chiamano mincha, farinace, che venivano dimenate, cioè il Kohen doveva smuovere l'offerta stessa in tutti i quattro punti cardinali e sopra e sotto. Perché? Perché è così importante, in particolare qui nell'Omer, addirittura fino al punto che l'Omer viene chiamato nella Torah Omer Hatenufa, il Omer che viene dimenato. Perché? Cosa significa? E finalmente, umau pirusha milim temimoti yena. Cosa significa quando dice contare sette settimane e poi aggiunge le parole temimot ti yena, che queste sette settimane siano complete? È ovvio che se tu conti sette settimane sono complete automaticamente. No, giorno per giorno qua. Varei le cheura kasher zesheva shabbatot mimele hen temimot. In teoria, nel momento in cui sono sette settimane, mimele, cioè in automatico, da sole, diventano intere. Sono sette settimane intere. Un mazzarich od le fareste mimoti yena. Per quale motivo è necessario aggiungere e chiarire che devono essere integre, intere? Cosa si aggiunge e cosa si vuole alludere? A che cosa si vuole alludere con questo? Allora abbiamo chiarito il significato della parola lachem a livello tecnico nel Omer, che significa ognuno deve contare non come altri conteggi che sono dati in mano solo al Bet Din, ma dobbiamo ancora chiarire cosa significa nell'anima e dobbiamo chiarire altri aspetti del versetto che abbiamo citato, che approfondiremo vedendo il percorso dell'anima nella Sefirata Omer, che ci chiarirà anche questi aspetti del Pasuk, del versetto. Buona giornata a tutti. Bellissimo.